Bastiglia, eh, boh. E nipoti? Ed è una bomba questa Bastiglia, eh. Metto Formina, sarà. No, no, quella mi aveva fatto male. Scusa, ma abbiamo detto ce la metto Formina, per abbassare la glicemia. Cosa ti hanno dato? Come si chiama? Xigato? No. Adesso te lo dico, ve la prende Concetta. Però la metti Formina a me, ma via fatto mari e me la ciambata. Sì, quando ho visto, mi ha fatto male, mi ha fatto sempre l'insulina. Finché non me l'ha cambiata lì? Pioglitazione. Aspetta un attimo che te lo dico. Allora, pioglitazone si chiama. Doc Generic. E guarda che cosa contiene, se no il metformina è mezzo. Basta che lo sia chi sa che mi vende a cusci, boh. E a me la metti Formina mi ha fatto mari. Non può esserci, perché se c'è quella mi fa male. No, no, a me mi ha dato vita. 30 mg compresse. Non ce n'è, no, metti Formina qua. Bisognerebbe leggere il bugiardino. È il bugiardino. Fa un raggio. Il bugiardino è ballista, non dice la verità. È bugiardo. Sa chi lo chiama Negus? E che ne so io. Fa un raggio. Avanti, Ola, avanti. Ola, chi è? Chi è? Ma intendi la parola? La propagazione che c'è. Se qua roba fa sparire quando parla. Sì, anche io ho QRM oggi, ma insomma ce l'ho, perché cazzo c'è questa cazzo di propagazione. E stasera per esempio sentivo male di quanto era forte. E anche io ieri in macchina sentivo male a tutti, c'è l'ombra di QRM di propagazione. No, ma questo qua sta arrivando bene. Non tappa il QRM, anche se il QRM non è forte da me oggi. Ma dà fastidio. Ma con le leggi la vita. Beh, se non lo copri, sì. Se non copri il QRM dà fastidio. Infatti. Quando molli tu si sente quel di QRM. Vabbè. Io sono come la spugna, lo cancello. Sì, kappa. Ma è vero, sì. Mamma mia, che è entrato, la taglia. È vero. Quel brigantino di Franco è entrato. Ciao, buonasera Gianni, ciao anche a Natalino, buonasera. Ciao Fra. Non è brigantino, è un coccomane. Avanti che te ne scenda. A me mi sembra che brigantino quel Franco. Quel Franco, capo. Allora, che si dice? Tutto a posto? Che mico fa il cosato, fa? Il Tanner più 3, Gianni. Forte, bella forte la radio. Gava. Chi è questa signorina che sta parlando? Boh. Attenzione, canale 10, da Sardegna, Italia, fa chiamata, cambio. Attenzione, signorina, ascolti la Sardegna. Andate, propagazione lontana. A me ne mi sentite a me, sì. Ehi, a fronte chiasso. Chiasso, vero. La radio che cos'è? La radio è una radio normale, dai. Marca? Sino, io lo sento forte e chiasso. Hai fatto l'attacco per il capo. Cava di positivo. Va bene, sì. Va bene, però non sembra un capo. È fortissima, ma pensavo fosse un baracco. No. Lo sto pilotando col 680 questo qua, capito? Però sono senza processore inserito. Vai a inserirlo a vedere. Ola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Era meglio prima. Sì, perché poi si trappa con il processore, capito? Però ha vinto Poggigio col processore. È vero. È vero. Ui. Andiamo a vedere, andiamo. E le BC 60, fra. E le BC 60, l'ho staccato. L'ho messo da parte. Trappa. E io dalla me. Ui. Ho potuto fare. Ma questo qua lo posso adattare dove voglio, capito? Lo posso adattare sia qua, automaticamente anche da altre parti, perché con lo spezzone, gli ho fatto lo spezzone, capito? Ah, fatto bene. Così lo attacca per lo spinone. Beh. Io ci attaccavo l'MB più 4 e funzionava alla grande. E certo che funziona, funziona bene, non c'è problema, capito? Non te ne accorgivi che era l'MB più 4 da me? Capito, c'ho lo spezzone, gli attacco l'MB più 4 ed è una bomba. Si conferma. Ma perché di tutti i nodi? Poi li faccio girare io. A me mi sta, io sto cercando un 140, però con l'MC 60, non lo voglio con il microfono. Respingere, tenere a distanza. Il mio esce col microfono normale, esce come che sia con l'MC 60. Conosci una parola? E non ti inabiti. Davide. La commissa. Ma il 44. E allora? Ma quelli sono difettosi, c'hanno quel difetto là che si presenta prima o poi, si sa, quei puntini del VCO. Ma a posto. Al mio meno di 500 non lo do. Non so neanche a bo... 500. 400 vale 440. E ci controlla lui. Il mio, ti sto dicendo, meno di 500 non lo do. Il mio c'ha l'accordatore automatico, c'ha i filtri, c'ha tutto, quindi meno di 500 non lo do. A me piace più 140 come stitica, lo sai. I gusti sono gusti. Oh, anche il 440 è bello, anche se 80, però il 140 mi piace di più. Come estetica mi piace di più. La stetica, come diceva un tipo che conosce lui. E come mai hai fatto questo recinto? È per migliorare la stetica. Frank! Narami tutto, cambio. Io adesso sto uscendo con un altro microfono, vediamo se indovinate qual è. Sì, sarà il microfono della Midland. No. Ecco, a voi, Franco. Non mi piace già, no, non mi piace la modulazione. Oh, mi hanno detto che era migliore dell'MB più 4 ieri, me l'hanno fatto cambiare. E a volte esce tutto. Adesso? Adesso no, ma poco fa sì. Magari non ho premuto bene il microfono. Ah boh, Natalino, me l'ascolti tu? Un attimo, io non ho seguito perché stavo parlando con la 50. Ho detto come l'ascolti? A chi? A te? A Gianni. Io l'ascolto bene. È la tovaglia della... Trucco. A me non mi risulta perché sono in cuffia e non mi sono sentito. Ha fatto un tratto e poi adesso sto scendo bene. E io magari ho premuto male il microfono. Ma la radio com'è? Perché questa non è la capsula sua, gli ho cambiato la capsula. Ah, va bene. Questa lo sai che capsula è? Terza Delta, di un San Delta vecchio che c'ha bene. Sì, già va bene lo stesso. Io ti ascolto bene. Ma sai cos'è? Che nell'MB più 4 se attacco esce distorto, esce sacco. Invece con questo non lo fa. Vuol dire che è troppo potente il microfono e ti fa quella dolorina. Eia, è troppo potente perché c'è la modifica. Vabbè, quindi quando attacchi fa quel lavoro lì. Probabilmente è quello infatti. Gappa, infatti. Cava di gaba e cava di gaba. Gara. Comunque questo è camuffabile veramente. Ha una radio più limpida, più con acuti. Non sembra il K, capito? È camuffabile. lei andava? Prova a parlare più vicino, fra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi adesso risulta più corposa. E questa è l'MC60, eh. Ah, ciambato. Ciambato di buttare tanto. Eh beh, questo è diverso. Sei Pascalzone tu. Te l'ho detto che è brigantino. Perché da questa all'altra è diversa, eh. Eh beh, questa qua è più corposa. È più bella. Corposa è vero. Chi è questo? E beh, Tore. La pagliera è corposa e... E allora? Io ti credo. Buonasera a tutti. Tore, ma tu cosa ne dici? Un branco, sei un brigantino. Perché tu a me non mi ascolti, ecco cosa è. Da quando c'è l'antenna bigiata. Ma già esce non mi appesse, grande puntata, già esce. Ma cosa la dici? Quando fa caldo, quando comincia a fare caldo, saliamo, la staffa ce l'ho già, devo comprare due bolloni e la fragosa burro, per tenerla dritta. Ma ascolta, ma è il tubo che si è piegato? No, è il tubo che si è piegato, però per terra è attaccato al pilastro ed è di traverso. Ah, non è l'antenna che si è piegata? No, è il tubo che ha tagliato la staffa e si è piegato verso il pilastro. Grazie di busta che va via, Rubetto. Io ti credo, ma te oggi a me. Bisogna metterci tiranti, c'è poco da fare. Io sarò esagerato, ma mi Franco l'ha visto, i tiranti che laggiù buio. E tutto gli metto, oltre di mettere la staffa nuova sotto il tetto, gli metto tiranti, tutto quanto, la drizzo bene, gli aggiungo un altro pezzo di tubo sotto per tenere dritto. E poi devo cambiare anche una staffa fuori per addrizzare l'antenna nera, quella della canna da pesca. E più gli metto i tiranti anche, il cemento rapido e tutto che c'è che bevo in bongo. E anche cadere il gabbano, lo bello, va bene, la ricomenzi, dopo non fai più problemi. Se lo fai bene dall'inizio, quando ci metti roba più leggera, vedi, non tiene. Perché a me me l'ha piegato un tubo me l'ha bigiato, lo vedi, me l'ha ritirato pure. Ma io sono rubigiato un tubo che ha chiedi su in cosa, tubo di acqua forte, quello zingato. E anche il mio così, il mio l'ho preso da Marcino. Dice una roba di quasi 50 anni venne che sono dubbo. Infatti non può, sono bravi. Ha tagliato la staffa, ha tagliato, perché ce n'era una. L'ha tagliata e si è piegato il tubo, si è attaccato al pilastro. Cappagappa. Vabbè, succede, dai, succede. Abbiamo fatto una pizza per chi sa i master che ha tirato la giubbuta, da qui è dura dalla la sotto Stefano, ma... Ah, io non si è mai tagliata l'antenna, è fatta abbastanza bene, si è mai rotta. Solo che devo, quando è il momento di coso, la modifico. In che senso, cosa li vuoi fare? La 27 la faccio HF. E per la 27 cosa usi? Quella lì sto usando, l'antenna... quella H nella pesca sto usando. Ma sento che la fai per l'HF e poi non va più bene per la 27, perché la devi accorciare. No, non va accorciata, non va toccata l'antenna, devo aggiungere solo una scatola col balun dentro, hai capito? Hai capito, Fra? Cosa? E gli aggiungo la scatoletta col balun. Vedia, vedia, ho capito, ho capito. Beh, poi va bene per tutte e due le frequenze. Per qualsiasi frequenza che la voglio usare la usi, 27, 40, 20 metri, è tutto, come c'ho là tra vicino, quella da 7 metri lo stesso, quella è HF, era una 20, una 27, è stata modificata a HF. Ho capito, non lo sapevo, non pensavo. Cotto, l'ho rifatto quel palamito, l'ho tutto rifatto nuovo. Oh, meglio così, meglio così. Cosa gli hai messo, tutto nuovo? Allora, ho messo i filaccioli da 40 e il filo madre, quello che mi ha dato tu. Praticamente gli ho aggiunto 20 anni in più, 120 anni, dai. No, non farlo da 120 perché te lo controllano, e farlo da 100, non farlo a 120. No, da 199 anni puoi buttare. Ehi, fino a 200 anni si può buttare, ma sapone nei quattro il latte per e si arriva. Infatti è così. No, quando lo buttavo da 100 io me lo controllavano sempre. Staneglia me lo controllava sempre. Io non posso fare, rivaglio. Devi uscire la notte e lampando e ritirarlo a Manzano. Ma se no, per Manzano un paio d'ore e da poi te lo ritiri. Io l'ho fatta orate quello lì io l'ho butto la mattina alle 10. Alle 3 entro e ne ho salto, capito? Ehi, non lo da sa rasura? No, io faccio solo quella pesca, e boh, io lo getto alle 4, lo sto dicendo, dalle 10, poi alle 3 entro e ne tiro tutto. Sì, fa così, già va benissimo. Ma come ti ha preso, Fra? Sì, ce l'ho in campagna, ce l'ho. E motore, vieni. Beh, se lo faccio, lo gommone senza motore, già. Allora, vai, tra chi è obbligatorio a dare con motore, io lo pagherò anche a Rimi. No, c'ho un 3,50 m con un motore da 18 da 20 cavalli. Un Thompson. È un Yamaha a tre cilindri. Sì, è piccolo come motore, e quelli sono motori che puoi andare col mare calmo, là. Piccolo come motore, 20 cavalli è piccolo. È inutile che la gimanno. Non fai niente già, perché beh, non trovo e poi per il lavoro che devo fare io va benissimo. A me ci serve giusto per tirare la lente a largo e buttare quel palamitino, boh, basta. Sì, vabbè, ma solitamente sono da 40 cavalli, 25 cavalli, diciamo, è mediocre, là. Hai fatto io entro a mare calmo, mica entro a mare brutto, va. Vabbè, infatti, dopo ti grullerei già tutto, se la prima. A mare calmo, l'oggetto. Pure se appena mosso va bene lo stesso, ma non molto agitata, che sennò manco entro, figura di tu. Bra, e chi ti capiteggia come ti è capitato a me? Questo applauso continua e arriva là. Manco male mi aveva vestito, mi avrà detto, mi si vede chi si caima. Tu stai un colpo, fuggi subito, a chi arriva di là in pesa. E così mi è successo una voce, ha già passato l'orizzonte, era tutto, alza giù di tu, ha giubilato, giù di là, di culo, lo gommone, e sono fuggito subito, e a Videla si è aggiunta la timpesa, ma timpesa però. L'argentiera, una volta siamo usciti dalla mare calmo, tutto un tratto stava girando, lucendo, tempo a fare a terra. E a me mi è successo lo stesso, però Mario mi aveva avvertito, mi se succede così, fuggi subito. E invece a noi ci ha pizzicato proprio in pieno, a tempesta. Eravamo l'unica barca in mare. Siamo usciti alle 6 di mattina, questo amico mio, c'erano tutte le barche rientrando, ci facevano segno di rientrare, no, che c'era mare. E lui dice, ma ci stanno salutando, ma come, ti stanno facendo segno di rientrare, ci deve essere mare fuori. No, non ti preoccupare, questo lo tiene il mare. Vabbè, c'era una sessa con due motori da 80 cavalli, però ci ha preso in pieno la tempesta, pioggia, vento, eravamo l'unica barca in mare. Dice che era un bullo, era tutti grugano chiaro a Baidelli. Io lo credo. E una volta sono uscito io col mare agitato, lo stesso. Loro stavano rientrando, io stavo uscendo. Ma non lo posso più però. Lascia prendere Natalì, che lui se n'è andato sotto dove c'era la cuccetta, perché c'era la cuccetta sotto. si ha preso un boccione di vino, ha cominciato a bere, si è imbriagato, e ho dovuto guidare io col mano in tempesta, non avevo mai preso una barca in mano. Figurati. Poi è difficoltoso quando a chi la vacca non riesce a camminare, un casino. A mare calmo da riuscire, specialmente da poi quando ho questi gommoni, non è che per gommoni piccoli non è che puoi pretendere più di tanto, se c'è un gommone grosso, un 7 metri, 8 metri, vabbè. No, ma questa era una sessa, era un'imbarcazione proprio, un'imbarcazione bella, c'aveva sopra il tendalino, tutto quanto, era molto bella, c'era la cabina sotto per dormire, però capito. Lui è montagnino, quindi di male non è comprendiamo. Infatti. Inutile che faccio un cabinato quando non ne comprende nulla. E basta avere quella lì, la fa andare un motore da 25 cavalli, quella barca lì. Figurati con due motori da 80, a vora. Ti sto dicendo che c'ho le onde alte, le prendevo di smiecco, che la barca si staccava dal mare, proprio volava. Sì, già me la posso immaginare, già la conosco quella lì, la barca. Poi arrivati al molo, io non sapevo ormeggiare, ho detto io alzo sopra, butta i salsicciutti da bui, già su io. E alzando, ma com'è che tu come te la vita fatta, c'erano tutti quanti pescatori aspettando, poi siete incoscienti a uscire con un mare così, ci hanno sgridato. A Roma rigidati di Posse, non hai compreso, non di due tumba già. Siamo andati verso Bosa lì, verso Bosa, perché lì prendevamo le pizzone anche belle, c'avevamo le calle elettriche, lui ci aveva, io no, io avevo una canna di gacchio, e lui ci aveva le calle elettriche, capito? E lo sollevavano sino a quasi arrivata la barca, poi prendevo il coppo, pizzone da 2 kg, 3 kg. Io sono andato da Tramariglio fino al coso dove ci sono le grotte di Nettuno con un gommone Nova Marina e un motore da 40 cavalli che c'ha un amico mio, ma bellissimo quel gommone, c'ho anche i video scattati. E la famo io, mia moglie e questo amico mio, però lo guidavo io perché Guido non sapeva nulla. L'ho imparato a fare la manovra con la macchina, con il carrello, a fare a tiro in mari e a farla andare. La tipica fuori. Fate la mente che siamo già che dovevamo uscire in barca e girava tutta attorno e non siamo riusciti a uscire. Che cosa? La volta che siamo andati a coso, all'isolotto, a prendere la barchetta fratello, a farci un giro. Se siamo riusciti a scendere un volo, ti giravamo tutto attorno e non siamo riusciti a uscire. E a chi non va via un coso, come si chiama? La timoneria va via su un'arriva di Rugoso, di un motore, e così non mi so buono. Io sono con gombo, tu non hai compreso. Anche il mio c'aveva la timoneria, quello che avevo io, il gommone. C'aveva timone, c'aveva tutto. Ma dice che si gira al contrario, così. E allora non è per quello, se devi andare a sinistra devi girarlo a destra. Aspetta un attimo che devo dare il premio a Curto, sennò si può abbaggiare. No dai, io sto andando a portare a Taiso, dai che si sta lamentando, dai. Ci sentiamo magari più tardi. Ciao. Okay, ciao. Natalino e tutti gli ascoltori, ci sentiamo. Ciao ciao. Ciao già, quale ti stai facendo? Sto andando a portare il cane, fra, si sta lamentando, vuole uscire, vuole scendere. Passa qua! Quale ti allora ce la riascolta? Vai Natalino, devo sistemare ancora con la fascia là, capito? Ha detto Natalino che si è nascosto. Nascosto? Ma ti immaginai tu cani che hanno mangiato tutto, che lo mangiavi pure la rubrina, se no si può abbaggiare, giunta ai nocchi, tu domanda, Oramai era abituato così e non vengo da arrivare, capito? Questo è cane signore, ha ciappato la medica a vino. Quella è una brutta bestia, Natalì, capito? dottore, va bene, mi ascolti? A voglia, certo, radio 5 è perfetta. Sto usando il coso, il 680. È perfetta, chiara. Senta, ti ho mandato la fotografia, nuovo, è vero. Sì, è fatto come il 140, è fatto come il 140, solo che c'è la scritta 680. Sì, ma però questo c'ha anche i filtri, capito? Sì, uno ne ho solo io filtro, dall'altro lo sto cercando per metterglielo. Ma questo ne ha due, c'ha uno e due di filtri. Infatti quando li mettono sento nessun QRM, nulla. Sì, è Bruria, ne dai. Come la gente su più a chi su. Ma se o è parito o è fuggito. Non lo so. No, questo va bene, questa è la radio. È di uso. Ne ho uno solo, infatti quando metto il coso il QRM si abbassa, però ce ne vuole un altro, ce ne vuole. Sì. Vabbè, l'ho dratto così, me l'ho dratto. Quando la ciappo mi rubiglio. Che sono dei muletti. Quello sì, vabbè. Pazienza. Pazienza. Questo non è dato problemi, capito? Poi io da quando ce l'ho non gli ho fatto mai niente. L'unica cosa che gli faccio ogni mano ogni tanto, gli ho fatto la pulizia della ventolina e boom. Sì, vabbè, ma non c'è piena di polvere quella, già è coperta. Se è coperto l'apparecchio non entra polvere. Sì, ti pari a te. Il viraggio del decorso dentro l'ha già baidato e più guarda uno pennello. Io quando l'ho aperto c'era la polvere, l'ho tutto quanto col pennellino piano piano, l'ho tutta pulita la ventolina. Io l'ho guardata la ventolina, no, la ventolina. La ventola manda è, non è ventolina, è grande come ventola. È una tangenziale. Certo, e non è sporco. No, ci vedi che non vende più, Varo. C'è quella che c'è, il 440, e quella rotonda, circolare. Hanno messo quella e non andiamo manco a ruccio. Poi, non hanno problemi con gli apparecchi. Sì, il 440 che dà problemi. Gli altri no, era l'unico che dava problemi, perché scaldava parecchio, scalda. Ma la tu, che il 440 non mi dà problemi, a me non me ne ha mai dato. Neanche quello che c'avevo io, Natalino, mai problema non aveva dato, mai. Dipende come si usa pure. A me non me l'ha mai dato di problemi. Io l'ho usato, quello che ho dato a te, e dopo io ne ho avuto tre di 440, ma ti rugo. Già lo so, che ne avevo uno, era una bestia. Chi su che ti aiuta tu, io bisognava parlargli di voi semi ai su 440. Vabbè, per il finale del 9.50 sotto, cioè nel mio pari del 9.50. Ma voi ci sono associati? Non mi dice a volte si apparecchio. Si sono associati, cazzo. Il mio sta dando 200 watt, 200, ma anni di tre, il mio ne dà 200, gli dice. Cazzo, dare più voci a Palermo, cazzo, 9.60. Figurati. Ha detto due abiti si lo sta a casa sua. Non ci sono i voti, dici. Non ci va forte. È bello, mi ricordo, il 440 è una bella radio. Vale, il 450. Il 440, quello con l'accordatore corporato. Sì, quello sì. Sì, vabbè, ma lo devi tenere sempre sotto controllo, lo devi tenere. Una cosa, che io la sentivo era pronta a funzionare, invece chi su capelli di voi, cazzo, bisogna farli così, come è un cazzo lo fa di così, il buonismo, chi c'ha pure il pulsante era pronto ad andare. E ha tutta un'altra cosa, a parte che c'ha un recepitore diverso, va più tutti i filtri, era un apparecchio, cazzo, impareggiabile quello che avevo io, poi l'avevo dato a Franco, l'avevo dato me ne avevo comprato un altro e l'ho dato a uno di Uri, l'avevo dato, e adesso ne ho un altro ancora. 4,40. Sì, con l'accordatore automatico, tutti quanti. Andare. È bello perché ce l'hai incorporato l'accordatore, capito? Prendi, accordi e vai. E poi, cazzo, lavora in di Salvatore, cazzo, stava a casa. A chi va più l'antenne, va più. E si va a dire di Exa. A me si faceva. Io c'avevo le antenne, quindi lui poteva trasmettere. Che c'aveva la patente, c'aveva e tutto. E siccome lui non aveva antenne, lo usava solo in macchina, l'apparecchio, allora per farsi di ex veniva da me, io stavo al computer e lui trasmetteva. Io stavo... è più facile la cosa, che vanno i ruglaser, i computer origini e sanno che avvengono in frequenza, va di ciamani e rispondono subito a quel pusiguru. In 80 metri, gatta, ha dovuto fare la lista a chi a tutti gli mancava la sardigna e non so che inganti erano, e allora ha fatto la lista per nominativo, no Salvatore, la buona anna. Gatta, arriviani a fondo scala. Povera veloce venne di ex, gatta, io avevo a me, gatta. Un treno era. Allucinante, ragazzi, una cosa impressionante. Bravo era, Era proprio sì. Più un anno morto, no? 2 anni forse. Pietro. Poveraccio, che comprare divani e armadi. Era bravissimo, una brava persona. Sara. Era molto preparato. Non fa più. Era un treno facendo di ex. Si sente quello? Chiamava ragazzo, lo rifundiani tutti. E usava la mia stazione, usava praticamente. Io. E allora attore. E la fa. Dimmi. Comunque quella foto che ho mandato in WhatsApp, quella radio è diversa. Da quello stai dicendo tu, anche il connettore cambia. Sì, cambia tutto dietro cambia tutto, cambiano le posizioni dei fili, cambiano anche. Quello che ho io è messo adatto per il coso, per la mia macchina. Sì, infatti, e comunque no. Quelle radio lì danno problemi, danno. A parte che il telefono non si sente bene neanche, io l'ho piazzato, l'ho provato e non è che mi piace più di tanto. No, io ci devo rimettere, torna l'originale, ci devo mettere, almeno quando sono in macchina che mi chiamano al telefono rispondo dalla radio, rispondo e si sente benissimo quando parlo. Allora perché ne l'hai tolta? Devi lasciarmi la sua. Sì, già, la mania, già da uno di questi radio, già da voi, si capisce che non si intende che hanno capito. Hanno problemi con le radio, Tommy, ce l'avevo io. Vediamo la tari, ce l'avevo piazzata e mi stava dando problemi, no? Infatti, bisogna attaccare l'originale la radio, sennò è inutile. 1-0 per Samuele, Simon Pietro, che ancora i rivali cercherà. E buro laggiù, la mia. Però l'originale non l'ho potuta mettere perché non riuscivo a farla funzionare. A chi non mi ammintavo, Rugudice, va via, Rugudice, no. Signore Bunis, Rugudice non funzionava. Sì, infatti c'è il codice, se non gli dà il codice non funziona. Accende, ma non fa niente. Per me c'è il codice. Tu hai sentito di Apulu, vai a... C'è il codice, ciao. Come lo metto, devi schiacciare, Cavanilla, io... Se ho fatto un altro, funziona. Chi mi arrabbi? No, perché... Comunque il codice già, se vai su internet e metti il modello della radio te lo mandano, mi sa che costa 3,50 euro. Sì, non ce l'ho più, no, quella radio sua originale. Io c'ho una Sony che c'ha il DAB, c'ha lì la voce, c'ha tutto. Sì, allora già va bene. Ma un po' quell'FM normale, non senti più nulla perché le tolgono. E se non hai il DAB non ricevi nulla. Beh, quello che c'ho io prende da tutte le parti. Anche provato guida, la radio lo prendeva. Figurati. Ho questa con la testa sotto cappotta, si sente da tutte le parti. Ehi, ha un grido. Chi sa, e non ti chiedi chi sa originale, qui c'è Marecci di Napoli. Costa più di 300 euro quella radio. È originale Alfa. Infatti. Perché mi ha modificato il radio, tutto, avete imballato pure la centralina. Tra, quando viene no che ti posso vedere l'USB come ti funziona. Codice. Che regale. Io dico se non Tatsuki. Cazzo va roba di 8 filtri. Ma lo c'è un po' costruito. Una schedina, Cazzolo, costa un sacco di soldi. Però cazzo. Ah, quando lo devi funzionare mi dice Veruetti, mi capa tutto il QRM, intendi chiunque. Cosa costa un sacco di soldi, un bel? Solo la schedina costa sugli 80 euro. Vabbè, poi ci sono i componenti, così che. Ah, oh. Dopo devi buscarti una scatolina e mettercelo dentro come ho fatto io, lo devi assemblare, no? E il mio lo posso attaccare a qualsiasi radio che voglio io, perché gli ho fatto la situazione di attaccarlo al coso delle cuffie ed è attaccato a una colonnina, è attaccato, ti sto godendo che quando schiaccio il pulsante si toglie tutto il QRM e più chi c'è più si fa silenzioso. Ho capito, un filtro dai. E no, un bel di filtro non è un usuro, no, va pure un visto barugico doppio. E dopo l'avesso per la radio. La versione fraco di fuori a se di qua vita via fratello, questa piccola chiamata che ti chiede che me chiede. Ciao Mariello, buonasera, me la sto dando gambe. Sì, e c'è qualcuno che ti stava chiamando, capa capa. Senti qua, prego California, tu la vedi capa capa, fratello mio, che pezzo. Ciao Luca, Luca capa capa, ti ascolto benissimo qua, cambio passo e chiudo. E beh, fra, te lo ascolti bene, va bene, però vale, sono comportabile, che mi è arrivato a Talio. Già ti ascolto bene, qua arrivi benissimo. Ci stanno problemi qua, tutto sotto controllo, capa che adesso. Comportabile sì. Allora, come era comportabile? Guarito sì, fra. Cava cava, era ora. Faccio, anche io così, lo sai, quella volta è brutta. Ma no, dovuta dal Covid. Dovuta dal Covid, ma dico la brutto. E vabbè, guarito, ho portato antibiotici, me ne ammazzendi. Invece a me lo gattardo ancora passami. Quelle sono le sigarette, Natali. Ma tu sei parente a massimo di cattarro, Natali? Come? Ho detto, sei parente a massimo di cattarro, poi ci massimo di cattardo. E allora? Uff, ancora passami, vai, in una rabona. Allora sai, Cata, cosa ho cenato oggi? Mi ha fatto questa cena mia moglie. Rodo di mammo. E tu come fai a saperlo? Rodino di mammo mi ha fatto. Ma se sei cuocomare. No, cuocomare sei tu. Direi sempre con cuocomare. Miratore, mi. Lucariello mi. Ebbene, e allora? Come va? Studiato stai, sì? Sì, sei troppo buro. La mente occupata ciò. Ma ne sa più di un ingegnere, Dore. Ma no, vicino a me. Ma sei tu che insegni gli ingegneri. Se viene vicino a me. Se ti bugi. Non va bene, no. Signore, a me ne fai le lezioni, caspitina, almeno mi promuovono, gatta. Civile. Natalino, non ci possono vedere, no. Loro ci sinicavano. Ma esagerava. Sennò da voi non si vedono. E io, Silvia, si è detto che non si buoni videi e ha detto che non cavano i dolci se non si buoni videi. Allora, va bene. Va benissimo, dai ragazzi, io devo mollare, devo lasciare, perché mi devo prendere le pastiglie. Ok, statemi bene, ci risentiamo alle prossime. Ciao Luca, ciao Franco, ciao Natalino e ciao agli ascoltoni che hanno venuto zombie. Ok, ciao a tutti. Cappa, ciao Tore, grazie per le quattro chiacchiere, ci sentiamo alle prossime. Avanti Luca, avanti Franco. Ciao Tore, buon corretti, buon tutto e ce la riascolta alle prossimine. Ciao ciao. Vai Natalino. Chiara chiara. Questo Luca lo chiami e non risponde proprio coccomane. Sicuramente è impegnato mangiando pizza. E allora? Alla faccia mia. Luca lascia stare le pinze e piglia le tenaglie. Sì, quasi quasi adesso chiudo anche io, dai, vado a cenare e poi mi guardo un po' di TV. E io ho già cenato, ho fatto tutto, adesso me ne faccio pure, pure io, dai, ci sentiamo alle prossime, salutando anche gli SWL in ascolto, grazie per le quattro chiacchiere, fra. Ci sentiamo alle prossime, ciao Luca se stai ascoltando, alle prossime. Ciao Natalino, credi buon tutto, saluto in casa e alle prossime, ci aggiorniamo. Ciao anche a Luca e saluto anche eventuali SWL, per me QRT, ciao a tutti.